273. Anatra domestica col contorno di riso. Questo mi sembra un buon umido e che meriti una menzione speciale. Fate un battuto con un quarto di una grossa cipolla e tutti gli odori, cioè prezzemolo, carota e sedano tritato, insieme con grammi 50 di prosciutto grasso e magro. Mettetelo al fuoco con 2 cucchiaiate d'olio e l'anatra sopra, condita con sale e pepe. Rosolata che sia, bagnatela con sugo di pomodoro o conserva e l'acqua occorrente per tirarla a cottura, gettandoci in pari tempo un pizzico di funghi secchi per cuocerli in quell'intinto che poi va passato dall'ostaccio e digrassato, serbando i funghi per unirli al riso. Questo, nella quantità di grammi 200, mettetelo così crudo in una cazzaruola con grammi 40 di burro e quando accenna a prender colore, versate acqua calda a poco per volta, dandogli sapore con l'intinto dell'anatra e parmigiano quando siete per levarlo dal fuoco.